L'iniziativa nasce da, diciamo, la presa di coscienza che nell'esatto istante, poco dopo i fenomeni alluvionali che hanno interessato anche la nostra città metropolitana, immediatamente, come in realtà lo scorso anno, la polemica politica fra il governo nazionale, il governo regionale e, in termini marginali, le amministrazioni locali, è divampata con accuse reciproche, recriminazioni, in qualche modo con però una mancata assunzione di responsabilità da parte di entrambi i soggetti istituzionali, con il governo che lamentava il fatto che la regione non avesse speso delle risorse, con la regione invece che accusava il governo di non averne stanziate a sufficienza. In questa, diciamo, diatriba tra questi due soggetti, i comuni, le realtà territoriali, venivano messe immediatamente in secondo piano e le esigenze dei territori allo stesso modo venivano messe in secondo piano proprio per impedire, secondo noi, un dibattito fondamentale invece sullo stato del nostro territorio, delle sue condizioni idrogeologiche e sugli investimenti che sono necessari e che sono molto molto corposi, quelli che dovranno essere fatti nei prossimi anni. E in realtà le dichiarazioni di oggi del sindaco di Bologna Lepore, secondo me, sono interessanti perché sono nella direzione opposta rispetto a quella del nostro comunicato, perché Lepore ha detto che alcune persone dovranno andare via dai posti in cui vivono, il territorio non può affrontare in qualche modo il cambiamento climatico e queste alluvioni costanti. Noi invece pensiamo che ci debbano essere risorse e investimenti affinché le persone possano vivere in questo territorio in sicurezza e in condizioni, appunto, che garantiscano la sopravvivenza e una vita buona qui nella bassa o anche nei territori della collina che sono stati colpiti dall'alluvione. Quindi le polemiche sono una sorta di cortina fumogena per non parlare dei temi concreti. Quali sono i temi che ponete al centro dell'attenzione? Il primo tema fondamentale, appunto, è questo diritto dei cittadini di vivere in sicurezza il territorio, con investimenti che debbono essere, secondo me, fatti da tutti i livelli istituzionali, con un'assunzione di responsabilità molto molto più significativa, ma vogliamo anche che si intervenga sicuramente in maniera critica su ciò che è stato in tutti questi anni il tema del consumo di suolo. Fino agli anni, diciamo, del dopoguerra, con un'intensificazione particolare negli anni 90-2000, molti comuni della nostra provincia sono stati oggetto di speculazioni edilizie e crediamo che questi fenomeni aprano fortemente il dibattito sul tema della legge urbanistica regionale. Anche il PD su questo è tornato indietro. Noi crediamo che su questo debba essere fatta non solo marcia indietro, ma debba essere fatta una riflessione critica e una discussione aperta, perché si deve parlare di riduzione, anzi, di consumo di suolo zero, ma lo si deve fare sul serio, senza che, come è stato fatto in questi anni, poi si trovino dei correttivi, si trovano degli strumenti che in qualche modo permettono di aggirare questa questione. E poi quindi il tema della fragilità dei territori, che però non è di fatto preso in carico dall'amministrazione regionale, dallo Stato e anche da una parte delle amministrazioni che sicuramente hanno buona volontà e sicuramente hanno mostrato in molti casi grande efficienza di fronte alla situazione emergenziale, ma che anche per motivi di rapporti politici faticano ad esprimere una posizione in qualche modo critica nei confronti di una regione in particolare che non ha dato il meglio di sé negli ultimi anni. A proposito delle alluvioni, insomma, se pensiamo alla Romagna, sono tre nel giro di un anno, però anche il nostro territorio bolognese è stato colpito negli ultimi due fenomeni, ma anche in precedenza, a partire dal 2019, penso all'esondazione del Reno, penso a Budrio, che è stata colpita veramente cinque volte oramai negli ultimi anni. Quindi c'è un'urgenza di anche interventi da realizzare? C'è un'urgenza di interventi da realizzare, perché anche alcuni degli interventi che erano stati realizzati di tampone rispetto all'alluvione del 2023 dovranno essere oggetto di una ripresa, di un recupero. Parlo anche del mio comune, Medicina, dove pure i danni sono stati mitigati, ma dove comunque ci sono dei danni importanti, dove molte opere devono essere rifatte. Ma il tema che poi emerge, secondo me, da questi fenomeni è il fatto che la classe dirigente territoriale e nazionale non prende in considerazione in alcun modo il tema del cambiamento climatico, che deve essere invece il tema della giustizia climatica al centro dell'azione politica ad ogni livello. È molto facile dirsi ambientalisti se poi a livello locale o a livello, diciamo, regionale si continuano a sostenere grandi opere altamente impattanti e non si vuole invertire la tendenza proprio sul tema del consumo di suolo, sul tema dell'inquinamento. Il centrosinistra su questo ha una posizione molto ambigua, sulla quale invece ci si potrebbe aspettare una maggiore chiarezza, anzi è fondamentale, perché crediamo che tutto tutto ciò non debba aspettare, in un mondo che va velocissimo, in cui c'è l'intelligenza artificiale, ci sono strumenti di prevenzione incredibili, ma in cui paradossalmente non riusciamo a trovare delle soluzioni per gestire un territorio che sicuramente è sotto pressione, ma che deve essere una priorità per consentire alle persone di vivere dove hanno la loro casa e dove sono sempre vissute. Quindi mettendo anche in discussione il modello, diciamo, emiliano-romagnolo? Il modello emiliano-romagnolo, secondo me, questa è un'opinione personale, non esiste più, nel senso che è una narrazione, un fenomeno narrativo che per tanti anni è stato portato avanti, ma questo modello si infrange di fronte alla realtà delle cose, di fronte alla fragilità del territorio in pianura come in collina e di fronte ai fenomeni che le nostre città, i nostri territori, non solo dal punto di vista, diciamo, del dissesto idrogeologico, ma anche in altri ambiti sta conoscendo. Quindi è un modello che diciamo non è che viene messo in discussione, ma che di fatto non esiste più, perché tante questioni che in qualche modo componevano questa narrazione sono negate dai fatti. Le nostre città sono città sempre più invividi dal punto di vista ambientale e per esempio dal punto di vista dell'accesso alla casa. Ci sono tante altre questioni che, al di là dell'alluvione, andrebbero affrontate con una prospettiva critica nei confronti di ciò che è stato fatto in questi anni ad ogni livello istituzionale. Fra due mesi nel nostro territorio ci saranno le elezioni regionali, come dire, questo potrebbe essere un'occasione per discutere proprio anche a partire dal vostro documento? Lo speriamo, non abbiamo una grandissima fiducia, ci sono al momento tre liste che si presentano, tre coalizioni che si presentano, una è nella continuità, quindi fatichiamo a pensare che con la coalizione di De Pascale ci possa essere una trasformazione radicale della politica della regione, ma questo poi è da vedere, bisognerà vedere i programmi e i candidati. Il centrodestra si pone nella discontinuità, ma continuità che probabilmente dal punto di vista, diciamo, nazionale è difficile immaginare, perché se Elena Ugolini sicuramente incarna la discontinuità, tale discontinuità non la incarnano le forze che la sostengono. E poi c'è una terza lista che invece sta mettendo al centro, diciamo, il tema dell'ambiente, il tema del lavoro, il tema della solidarietà. Sarà però una lista che sicuramente farà fatica a emergere anche dal punto di vista mediatico. Io spero che appunto questo documento possa consentire a queste tre candidature che si presentano alle regionali con profili politici molto diversi, ma in alcuni casi meno diversi di quanto si può aspettare, penso in particolare a Ugolini e De Pascale, possa essere un contributo appunto per affrontare il problema veramente da una prospettiva decentrata, non ideologica, però concreta, rispetto anche alla nostra esperienza di amministratori su un territorio che ha grosse difficoltà.